Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Doc. Vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sulle straordinarie migrazioni dell'uomo primitivo alle prese con un terrificante nuovo mondo. L'uomo preistorico, oltre a confrontarsi con le gigantesche creature dell'epoca, deve fare i conti con un brusco e devastante cambiamento climatico. Siamo nel Pleistocene, alla fine dell'ultima grande era glaciale. Un'epoca in cui sterminati ghiacciai ricoprono l'emisfero nord. Nicole Wogiuspak dell'Università del Wyoming ritiene che gli uomini preistorici abbiano colonizzato praticamente ogni lembo di terra emersa del pianeta. Solo un'ultima frontiera rimane ancora inesplorata: le Americhe. Quando si pensa alla storia di questo continente, molti la associano ai padri pellegrini, a Colombo, forse a Jamestown. Ma non dobbiamo dimenticarci che c'è stato un momento della storia in cui degli uomini si sono avventurati in queste terre quando ancora nessuno ci aveva mai messo piede. Per capire in che modo gli esseri umani si adattano a questo mondo pieno di insidie, gli scienziati di ogni parte del globo scavano nel passato per portare alla luce le tessere mancanti di questo mosaico preistorico. Le risposte giacciono sepolte accanto alle prede dei nostri antichi progenitori. Nei pressi della Central Washington University, il dottor Pat Lubinsky e il suo team sono alla ricerca dei resti di questi mostri preistorici. Ogni estate veniamo qui con una squadra di studenti e scienziati di molte discipline differenti, dall'archeologia alla paleontologia alla geomorfologia. Abbiamo 8 settimane per cercare di raccogliere sul campo la maggior quantità possibile di informazioni e in questo arco di tempo possiamo imparare molto. Gli scienziati scavano una serie di fosse quadrate e poi setacciano scrupolosamente il terreno. Questa attività assomiglia molto a quella di un detective. Ci sono piccoli indizi, ognuno dei quali può aiutarti a capire cosa accadeva nel passato. Siamo un po' come gli agenti del CSI sulla scena di un crimine. Siamo investigatori che ricavano informazioni da tutti i piccoli indizi che possiamo racimolare. Il dottor Lubinsky e il suo team stanno scavando a Venus Creek in seguito ad una scoperta effettuata per caso. Nel 2005 l'addetto a un retroescavatore al lavoro in una strada privata colpisce un enorme osso nascosto nel terreno. All'inizio pensa di avere a che fare coi resti di un dinosauro, ma gli scienziati dell'università si rendono subito conto che l'osso non è abbastanza vecchio per appartenere a una creatura così antica. Le dimensioni indicano che l'osso può appartenere soltanto ad un animale, un mammut. Poiché il reperto è lungo 90 centimetri, questo esemplare doveva essere alto circa 4 metri e mezzo e raggiungeva un peso di almeno 9 tonnellate. Nel giro di un anno, la squadra scopre anche l'osso superiore del secondo arto anteriore del mammut. Oggi, questo paziente lavoro ha portato alla luce una scapola sinistra. Il dottor Lubinsky ritiene che le ossa appartengano allo stesso animale. I due omeri che abbiamo recuperato fino a questo momento sono di lunghezza identica, perciò probabilmente si tratta dello stesso esemplare. La scapola non era distante da quegli ossi, per questo sembra probabile che appartenesse allo stesso scheletro. I più antichi reperti fossili di mammut risalgono a circa 3 milioni di anni fa. Ne sono state catalogate parecchie specie differenti, ma nessuna più grande del mammut colombiano. Questo animale, il cui nome si ispira a Cristoforo Colombo, viveva solo in Nord America. Ed è l'animale più grande mai comparso sulla Terra dall'epoca dei dinosauri. Circa 1600 km a sud del sito archeologico di Venus Creek, sulle Channel Islands, al largo della costa californiana, riemerge un'altra tessera di questo mosaico preistorico. Dalla parete di un canyon nei pressi di un luogo chiamato Arlington Springs, sporgono 2 sezioni di gambe umane. Gli scienziati lo battezzano Uomo di Arlington e fanno risalire i reperti a circa il 7000 a.C. Ma 40 anni dopo questa scoperta, il dottor John Johnson, curatore della sezione di antropologia del Museo di Storia Naturale di Santa Barbara, fa rianalizzare le ossa e scopre che risalgono all'incirca al 10.000 a.C. Si tratta dei più antichi resti umani del Nord America. Questa è l'estremità del femore vicina al ginocchio. È spezzato ed è stato trovato così nel blocco di terra. Le altre ossa sono state portate via dall'acqua e sono andate perdute. È tutto ciò che è rimasto. Gli scienziati ritengono che l'uomo di Arlington sia un paleo indiano alto 1,57 m e che facesse parte di uno dei primi gruppi di esseri umani vissuti nel Nord America. Nicole Wagyuspack, Università del Wyoming. Quando si pensa a questi primi colonizzatori, molti si immaginano qualcosa di simile a cavernicoli, bruti dotati di poca tecnologia, costretti a una vita di stenti. Ma sappiamo che non è questo il caso. Erano esseri umani moderni, dotati delle stesse capacità cognitive ed intellettuali dell'uomo contemporaneo. Tuttavia, per i paleo-indiani, che pure sono più sofisticati dell'uomo di Neanderthal o di Cro-Magnon, la vita in Nord America deve essere una sfida molto impegnativa. Alle prese con un ambiente strano e sconosciuto, spesso lottando tra la vita e la morte, i paleo-indiani risolvono il problema del cibo con la caccia ai mammut. Probabilmente per abbatterne uno di questi colossi, il gruppo di cacciatori inizia a seguirne un branco e ad osservarlo. Studiano con attenzione gli animali per capire come si muovono nell'ambiente. Nel 10.000 a.C., probabilmente l'Homo sapiens caccia mammut già da almeno 100.000 anni, tempo sufficiente per studiare queste enormi creature ed affinare le strategie di caccia. Ciò nonostante, dopo tutto questo tempo, abbatterne un esemplare resta comunque una vera impresa. Jake Shapley, Central Washington University. Immaginate di affrontare un mammut, una bestia alta alla spalla dai 3 ai 4 metri, e di farlo senza fucili o pugnali o qualunque altra arma di metallo. Ucciderne uno è senza dubbio un'impresa mostruosa. Tuttavia, è un rischio che è necessario prendere. I primi umani ad aver mai solcato il suolo del Nord America vengono definiti paleo-indiani. Gli archeologi Nicole Wagyuspack e Todd Surovel dell'Università del Wyoming guidano una squadra di scienziati che sta conducendo uno scavo in un sito paleo-indiano. 12.500 anni fa l'uomo viveva proprio qui. Non possiamo sederci e osservare questa gente interagire o conversare, stipulare matrimoni intertribali e accoppiarsi. Cerchiamo di scoprire tutte queste cose in una maniera molto strana. Forse sembra impossibile ricostruire un'organizzazione sociale dal ritrovamento di pezzi di rocce sepolti nel terreno. Eppure riusciamo a ricavarne tracce utili. E ogni minima informazione che otteniamo dal manufatto più insignificante ci offre indizi su ciò che accadeva nella preistoria. Negli ultimi 10 anni, Wagyuspack e Surovel hanno portato alla luce più di 70.000 manufatti paleo-indiani. 70.000 sono tanti. Certo, non dobbiamo dimenticarci che il processo di creazione di questi utensili in pietra crea molti scarti e noi li consideriamo come manufatti perché sono di origine umana. Pensate a qualcosa di paragonabile alla lavorazione del legno. Quando avrete finito di realizzare la vostra scultura, vi ritroverete un mucchio di trucioli. La maggior parte dei manufatti umani rinvenuti sono semplici frammenti di roccia. Ma ogni tanto gli archeologi riescono a scovare l'arma più importante dell'arsenale paleo-indiano, una punta di lancia integra. Si chiamano Punte Clovis e prendono il nome dalla località del Nuovo Messico, in cui questi oggetti sono stati trovati per la prima volta nel 1932. Gli scheggiatori partono da un grosso pezzo di materiale non lavorato. Usando una pietra o un frammento di corna, ricavano un bifacciale più sottile, una grande roccia appiattita che è stata scheggiata su entrambi i lati. Per non mandare la pietra in frantumi, bisogna colpirla con precisione millimetrica. David George, St. Anselm College. Ottenuto questo bifacciale, continuerà a scheggiarlo su entrambi i lati, levigando le estremità, fino a quando la roccia non è piatta e sottile su entrambi i lati. Alla fine avrà trasformato il disco in una punta con estremità affilatissime. Quando lo scheggiatore ha completato l'opera, rimuove altre due scaglie. In questo modo conferisce alla punta Clovis la sua principale caratteristica, delle scanalature estremamente sottili. L'arma, dotata di una punta in pietra molto affilata, è ora pronta per la caccia. Ma per amplificare la potenza del suo lancio, il cacciatore paleo-indiano si serve di un apposito propulsore chiamato Atlatl. Questo strumento è lungo circa 30 cm, presenta un'impugnatura ad un'estremità e uno sperone nell'altra. Lo sperone viene inserito nella lancia. Con un Atlatl un cacciatore può scagliare la sua arma a una distanza pari ad un campo di calcio, a una velocità di circa 95 km orari. Grazie a questo propulsore così sofisticato e alla capacità di produrre punte incredibilmente affilate, i paleoindiani riescono a rendere la caccia al mammut ragionevolmente sicura. Dopo che il mammut è stato abbattuto, probabilmente la tribù si accampa accanto alla carcassa e tutti contribuiscono a smembrare l'animale. David Meltzer, Università Metodista Meridionale. 10.000 anni fa, quando gli esseri umani uccidevano una preda, probabilmente sapevano sfruttare al massimo tutto ciò che essa poteva offrire. Per esempio, dalla pelliccia si ricavavano degli indumenti, le ossa potevano essere trasformate in utensili e naturalmente la carne veniva mangiata. Ma non era l'unica parte ad essere consumata. Sicuramente estraevano il midollo dagli ossi perché è un alimento molto nutriente. Era un po' come la filosofia del maiale dei nostri vecchi contadini. Non si buttava via niente. Siamo dell'idea che i paleocristiani non buttassero via proprio niente delle loro prede, ma usassero tutto quello che potevano. Grazie agli indizi emersi dai siti archeologici, oggi gli scienziati possono descriverci come la vita di un accampamento montato nei pressi di una carcassa, subito dopo l'uccisione della preda. Nicole Wogiuspach, Università del Wyoming. Dal momento che stiamo parlando di cacciatori-raccoglitori, possiamo immaginare un paio di famiglie che collaboravano, ognuna delle quali con propri utensili domestici, perché probabilmente si spostavano di frequente e non usavano rifugi stanziali, a meno che non pianificassero di accamparsi da qualche parte per periodi di tempo prolungati. Di sicuro ci saranno stati molti bambini in giro per l'accampamento che avranno fatto ammattire i loro genitori mettendo a soqquadro ogni cosa. Sappiamo che in epoca paleoindiana questi ragazzini dovevano affrontare un processo di apprendimento. Sicuramente, oltre a giocare, questi bambini imparavano come tagliare le pietre, come usare il fuoco e a fare tutta una serie di altri compiti che di solito non spettavano loro. Mentre alcuni ragazzi imparano a scheggiare la pietra, i cacciatori arricchiscono il proprio arsenale e si preparano alla prossima caccia. Ma per quanto possa sembrare rilassata l'atmosfera del campo, un nemico si annida nell'ombra. Predatori come il temibile smilodonte, meglio conosciuto come la tigre dai denti a sciabola. Lo smilodonte è l'antenato preistorico di tutti i grossi felini che oggi popolano il nostro pianeta. Grande più o meno quanto un leone, una tigre dai denti a sciabola pesava probabilmente circa 2 quintali. È dal 1969 che il dottor Christopher Shaw porta alla luce resti di tigri dai denti a sciabola nei pozzi di catrame del Rancho La Brea a Los Angeles. Quando ho iniziato a lavorare a Rancho La Brea, una delle prime cose che ho trovato scavando in quel sito è stato il teschio di una tigre dai denti a sciabola. Qui, in questa parte del bacino di Los Angeles, abbiamo petrolio che filtra dal terreno, raccogliendosi in pozze non troppo profonde sulla superficie. Gli animali sono passati da queste parti e sono rimasti intrappolati in queste pozze di asfalto. Non sono riusciti a venirne fuori e hanno finito per morirci. E dopo la decomposizione delle carcasse, il catrame ne ha conservato le ossa. Radio Doc. Continua il nostro viaggio per seguire le migrazioni dell'uomo primitivo. Siamo alla fine dell'ultima grande era glaciale, quando enormi pareti di ghiaccio coprono gran parte dell'emisfero nord. Secondo la teoria classica, gli esseri umani pare siano migrati dalla Siberia, passando attraverso l'Istmo di Bering. Ma degli incredibili ritrovamenti fanno credere a Dennis Stanford dello Smithsonian Institute che la verità sia un'altra. Nel 1998, a Cactus Hill, in Virginia, gli scienziati scoprono punte di lancia che somigliano agli utensili di pietra realizzati da una popolazione chiamata Solutreani. Il problema è che i Solutreani si trovano a più di 8.000 km dalla Siberia, nell'Europa sud-occidentale. Nel sud-ovest della Francia e nel nord della Spagna abbiamo lo stesso tipo di punte di lancia che troviamo anche a Cactus Hill, in Virginia, che più o meno risalgono allo stesso periodo. Questi utensili condividono moltissime caratteristiche e la stessa tecnologia. A nostro avviso può essere il segno di un contatto culturale o della migrazione di una popolazione proveniente dal sud-ovest dell'Europa fino in Nord America. Il problema che lascia perplessi gli scienziati è: come può un popolo preistorico europeo sopravvivere a una migrazione di questo genere? Per il dottor Stanford, gli indizi sulla loro sopravvivenza si trovano sulle pareti di alcune caverne nei pressi di Marsiglia. Gli uomini del Paleolitico erano artisti rupestri molto abili. Sappiamo molto degli animali che cacciavano perché erano il principale soggetto dei loro dipinti nelle caverne. Bisonti, cervi, cavalli, ma anche foche, trichechi, pesci d'alto mare. Parliamo di pesca d'altura, e quelli non si pescano in spiaggia con una canna. Il dottor Stanford ritiene che ci sia un solo modo in cui una popolazione di pescatori abbia potuto raggiungere il Nord America partendo dall'Europa. La comparsa delle barche trasforma tutta la dinamica degli spostamenti degli esseri umani, perché gli oceani, i fiumi e i laghi non sono più barriere, ma autostrade. Disponendo di un equipaggiamento all'altezza e delle adeguate capacità, in acqua ci si può spostare molto rapidamente. Quindi, a mio avviso, è abbastanza ovvio che nel 10.000 a.C. questa buona idea si diffonda in tutto il mondo. Molti scienziati ritengono che già 40.000 anni fa l'uomo preistorico usi delle barche per arrivare in Australia. All'epoca il livello del mare è molto più basso e le distanze tra le terre emerse più brevi. Prima di avventurarsi in mare aperto, i primi cacciatori sopravvivono sfruttando il ghiaccio lungo le coste. David George, St. Anselm College. Sul ghiaccio oceanico si può viaggiare per chilometri e chilometri. Le foche, naturalmente, laggiù hanno scavato dei piccoli fori per respirare. Quando il ghiaccio inizia a sciogliersi e camminarci sopra diventa pericoloso, è necessario avere una barca. Attorno al 20.000 a.C., il livello dei mari è molto più basso rispetto ad oggi e Inghilterra e Francia sono collegate, andando a formare una penisola proiettata nel Nord Atlantico. Siamo nell'era glaciale e il ghiaccio arriva fino a questa preistorica penisola. Da qui, gli esseri umani potrebbero seguire il ghiaccio fino in Nord America. Dennis Stanford, Smithsonian Institute. Immaginiamo questi uomini che cacciano ai bordi del ghiacciaio, inseguendo delle foche dall'Europa. Si inoltrano sempre più su, fino alla Groenlandia. E di colpo seguono le foche dirette verso l'America. Se questi navigatori preistorici viaggiassero a sud, quel tanto che basta per evitare il ghiacciaio continentale, finirebbero nei pressi della regione della Baia di Chesapeake. Un viaggio del genere coprirebbe 3.200 chilometri, meno della distanza fra la Siberia e Clovis, in Nuovo Messico, dove sono comparse per la prima volta le omonime punte di lancia. Tuttavia, molti scienziati ritengono impossibile che degli uomini preistorici possano essere sopravvissuti ad un viaggio del genere. Se l'uomo preistorico sopravvive davvero alla traversata oceanica, secondo il dottor Stanford, si sarebbe insediato in un'area tra il Maryland e la Virginia, per poi irradiarsi in tutto il continente. Col passare del tempo, la tecnologia della scheggiatura della pietra evolve. Un cacciatore abile acquisisce la capacità di ricavare delle scanalature sulla punta di lancia. Nasce così la tecnologia Clovis, che nel 10.000 a.C. è un passo da giganti nella lotta per la sopravvivenza. Oggi l'archeologo Darren Lowry cerca siti Clovis nella regione della Baia di Chesapeake, ma oltre a trovare tracce della loro presenza, scopre anche prove della loro scomparsa. Nell'intera penisola di Delmarva, tutte le tracce lasciate dai paleoindiani della cultura Clovis scompaiono in un particolare strato del terreno. Un terreno depositato all'incirca 13.000 anni fa, vale a dire nel 10.000 a.C. Per alcuni archeologi, questi profili del terreno lungo le coste di Chesapeake indicano quando e dove è vissuto questo popolo preistorico. Dall'attuale superficie al fondo dello strato scuro ci sono 11.000 anni di differenza. Circa 60 centimetri in basso è dove vivono i paleoindiani circa 13.000 anni fa. Gli scienziati devono capire che cosa è successo nei 2000 anni che separano i due strati. Per capire appieno cos'è accaduto qui e per ricostruire il destino dei paleoindiani Clovis, gli scienziati hanno bisogno di tornare indietro nel tempo fino a 10.000 a.C. e a quel punto scoprono qualcosa di più letale di qualsiasi predatore. Gli uomini preistorici sono sotto assedio. Vengono colpiti da uno dei più intensi cambiamenti climatici della storia. Attorno al 10.000 avanti Cristo, buona parte dell'area intorno al Maryland e alla Virginia viene colpita da devastanti tempeste di sabbia. Per capire cosa ha causato un cambiamento così drastico, bisogna comprendere cosa accade alla Terra durante un'era glaciale. Il climatologo Peter Clark studia la caratteristica più evidente di questo periodo storico, i ghiacciai. Ci troviamo sulle pendici del Monte Hood. È alto circa 3.300 metri, vale a dire poco più di 2 miglia. Al picco dell'ultima era glaciale, il ghiacciaio continentale che ricopriva il Nord America era alto 1,5 chilometri più del Monte Hood e si estendeva dalla costa occidentale del Canada fino ad est, nel New England. Gli scienziati ritengono che all'inizio dell'era glaciale parecchi ghiacciai differenti si formino sulle montagne del Canada settentrionale. Dopo migliaia di anni, queste grandi pareti di ghiaccio si fondono e avanzano come un'unica massa. Gli scienziati la chiamano ghiacciaio continentale Laurentide, ispirandosi al nome dei monti laurenziani che ingloba. Un ghiacciaio come questo è composto da neve super compatta. Man mano che la neve si accumula, diventa sempre più densa fino a trasformarsi in ghiaccio. Se le estati sono fredde, allora il ghiaccio non si scioglie. E così, dal momento che la neve continua ad accumularsi, ghiacciai come Laurentide iniziano a spostarsi a causa del loro peso. Ogni lingua viaggia a velocità differente, a seconda del tempo della zona e delle condizioni sulla superficie. Tuttavia, ben presto la Terra inizia a riscaldarsi e i ghiacciai cominciano a ritirarsi. Durante questo periodo di riscaldamento, gli esseri umani e i grandi mammiferi possono approfittare di un ecosistema rigoglioso. Ma attorno al 10.000 avanti Cristo, il clima globale fa una brusca inversione e di colpo la sopravvivenza dell'uomo è a rischio. Gli scienziati lo chiamano evento climatico Dryas superiore. Piante, animali ed esseri umani vengono messi a dura prova da un clima che nell'emisfero nord diventa sempre più secco e rigido. Quando il Dryas superiore colpisce, nella penisola si perdono le tracce della cultura Clovis. In effetti, nei siti archeologici di tutto il Nord America non è mai stato trovato un manufatto Clovis che risalga a meno di 12.900 anni fa. Questo evento climatico ha spazzato via questa tecnologia. Di sicuro, anche in altre zone del Nord America, la popolazione di cultura Clovis soffre gli effetti del cambiamento del clima e del calo delle temperature. David George, St. Anselm College. Il Dryas superiore potrebbe essere stato il più impegnativo ostacolo a cui l'uomo preistorico è stato costretto ad adattarsi. Ma a quanto pare sono stati soprattutto gli animali del Pleistocene a subirne le conseguenze. 30 specie di animali si estinguono, compresa la tigre dai denti a sciabola o smilodonte. Per anni gli scienziati si sono interrogati sulle ragioni di questa estinzione di massa. C'è chi punta il dito sui paleoindiani, che sarebbero predatori troppo efficienti, ma non sono solo i grandi mammiferi a sparire. Anche oggi c'è il rischio che l'uomo debba adattarsi ad un brusco cambiamento climatico globale ed è lecito chiedersi se abbiamo la capacità di adattarci e sopravvivere come i paleoindiani del 10.000 avanti Cristo. Sappiamo che soprattutto negli ultimi decenni il clima è cambiato profondamente a causa dell'influenza dell'uomo. Ma la prossima volta potremmo non essere in grado di reagire a questo mutamento come i progenitori degli indiani d'America, perché loro avevano altre possibilità. Potevano trasferirsi nella valle accanto, oppure potevano migrare in un'altra regione. Per molti versi noi non possiamo farlo. È senza dubbio importante, utile e significativo guardare al passato per capire come quei popoli hanno reagito al cambiamento del clima, perché è la nostra storia. Alcune di quelle lezioni non sono applicabili direttamente alla nostra situazione, ma è fondamentale cercare di capire cos'è accaduto. Le differenze fra la cultura Clovis, emersa prima del Dryas superiore, e la cultura Folsom, evoluta successivamente, sono sottili. Quello che è importante in ogni caso è la capacità di adattamento che ha consentito ai primi americani di sopravvivere alle insidie e ai cambiamenti del 10.000 avanti Cristo. Che si trattasse di un nuovo paesaggio, di predatori affamati o di un brusco cambiamento climatico, questi primi americani hanno combattuto per la propria sopravvivenza e quella della specie umana. Per il nuovo mondo il 10.000 avanti Cristo rappresenta il cambio della guardia. Il Nord America non sarà più dominato da grandi bestie incapaci di adattarsi. Gli esseri umani diventeranno padroni del loro destino e di quello del pianeta in cui vivono. Vi segnaliamo che History Channel trasmetterà la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato lunedì 22 dicembre alle 15:10. Radio Doc si chiude qui e vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buonanotte.